Abbiamo scelto ieri, dopo le varie iniziative, cortei, mobilitazioni che sono visti protagonisti per le vie della città di Torino, di occupare Palazzo Nuovo appunto per rispondere a quell'esigenza abitativa che continua a esserci e c'è, cioè, soprattutto adesso dopo uno sgombero per cui più di 100 studenti che vivevano nello studentato occupato di nella residenza occupata di Via Verdi 15 sono rimasti senza un tetto, quindi insomma questa notte hanno dormito qua dentro dentro l'università che è stata occupata. Oggi siamo al secondo giorno di occupazione, già dalla prima mattina ci siamo insomma ritrovati per iniziare a scrivere volantini, comunicati, mettere manifesti nell'atrio, parlare con gli altri studenti. Le iniziative per oggi saranno un pranzo popolare che insomma inizierà tra poco, e poi abbiamo lanciato insomma un nuovo pomeriggio di mobilitazioni e cortei per le vie della città, che vadano un po' a colpire quelle che abbiamo individuato come le nostre controparti, come i mandanti di questo sgombero, quindi la regione Piemonte, il comune di Torino, ma anche l'EDI Sulent per il diritto allo studio nella regione Piemonte, che insomma era il proprietario della residenza universitaria che avevamo occupato, perché poiché era chiusa da mesi, e insomma è sicuramente anche lui compartecipe alla situazione di disagio e crisi che stanno vivendo gli studenti e le studentesse, i precari e le precarie in questa città. Una città che, ricordiamo, ha un'amministrazione che è ormai allo sfascio, una regione e un comune che sono indebitati ormai quasi fino al fallimento, e un diritto allo studio per cui non esistono più praticamente borse di studio date agli studenti a reddito basso, non esistono più posti letto, residenze per tutti gli aventi diritto. Quello che si è cercato di fare nella Verdi in questi mesi di occupazione è stato appunto ragionare su un diritto allo studio che partisse da altro, che fosse un diritto allo studio diverso dalla solita retorica dei meritevoli che hanno diritto alla borsa o no. Insomma, non c'erano solo borsisti dentro quella residenza, c'erano tante tanti soggetti e soggettività che insomma animavano quel posto e lo rendevano uno spazio liberato in questa città, in cui si riusciva insomma ad avere anche una socialità diversa, una formazione diversa rispetto a quella che ci viene imposta dentro le mura accademiche universitarie. Eh sì, insomma, perfettamente d'accordo anche su questo discorso del merito, che in realtà dovrebbe essere poi messo in relazione, no, alle situazioni sociali che vivono le persone, perché nulla ormai è garantito in questa società, e chi, diciamo, è privo di appoggi, e da noi si dice a meno il culo parato, tanto per essere chiari, insomma, di certo non può vantare lo stesso profitto, mettiamola così, e quindi è costretto insomma anche magari a ricorrere ai lavori precari e quant'altro. Senti Matilde, ma che reazioni ci sono state? L'EDISU, immagino insomma che come la DISU qui a Roma dipenda dalla regione, quindi le 5-8 mila a seconda dei numeri borse di studio per idonei che non sono garantite ormai più nella regione Piemonte non arrivano, anche perché è la regione che non le finanzia, insomma. Che reazioni ci sono state a livello anche solo istituzionale? Sì, insomma, è da anni che nella regione Piemonte viene tagliato il diritto allo studio. Con il governo Cota, il governo leghista Cota, si sono raggiunti appunto dei livelli non più accettabili. L'anno scorso appunto le borse non date agli aventi diritto erano 8.000 su 12.000 richiedenti, quindi una situazione oramai insostenibile, per di più portata avanti anche con una retorica razzista da parte appunto del governo regionale leghista, per cui borse di studio solo agli italiani, solo ai piemontesi, insomma una retorica veramente fastidiosa che alla Verdi si è ribaltata invece completamente, dato che tanti degli studenti che lì dentro vivevano, lì dentro occupavano, erano studenti stranieri o comunque studenti fuori sede, non tutti erano borsisti, insomma tanti erano i soggetti che animavano quello spazio, ma che sono rimasti comunque ad animare la mobilitazione. Quello che ci teniamo a dire è che la Verdi 15 non erano solo quelle quattro mura, insomma la Verdi 15 siamo tutti e tutte noi che da ormai due giorni stiamo continuando a mobilitarci, stiamo continuando a trovare solidarietà veramente in tutta Italia, e per questo insomma ringraziamo tutti i compagni e le compagne che si stanno dando da fare nel resto d'Italia per dimostrarci la loro solidarietà. Certo, va bene, va bene. Chiaramente, insomma, l'Edisu ha reagito male fin dall'inizio, definendo un atto di violenza la vostra occupazione, e quindi, insomma, quasi non desta meraviglia il fatto che si sia ricorso a uno sgombero, anche piuttosto, insomma, agitato, insomma, quello di ieri, no? O comunque sono stati abbastanza agitati i celerini nel corso dell'intera giornata, perché ci sono state anche delle cariche. Sì, diciamo che il dispiegamento di forze dell'ordine è stato assolutamente enorme qua in tutta la città, sia per praticare lo sgombero che è avvenuto alle 10 del mattino, quindi in un orario veramente insolito in cui appunto la porta della residenza era aperta per permettere a chi viveva di poter andare a lavorare, a studiare, piuttosto che a chi lì dentro va a studiare, perché lì dentro c'erano una serie di aule studio, di laboratori, ciclofficine e quant'altro. Uno sgombero quindi abbastanza particolare, che ha visto un dispiegamento di forze dell'ordine per la città di Torino veramente veramente esagerato, e che ha continuato questo dispiegamento a protrarsi per tutto il giorno, dato che noi da subito abbiamo voluto intendere questa giornata non una giornata di frustrazione o di ripiegamento in noi stessi, ma invece come una giornata di lotta. Quindi da subito si è creato un presidio insomma vicino alla residenza che era sotto sgombero, ma da subito poi si è trasformato questo presidio in un corteo che è andato appunto a colpire quelli che sono stati i mandanti di questo sgombero. Quindi la residenza siamo partiti verso la regione Piemonte, dove ci sono state diverse cariche da parte delle forze dell'ordine, per poi continuare verso il comune di Torino, dove anche lì abbiamo subito una pesante carica. Ci sono state una serie di feriti tra i manifestanti, tra gli studenti che erano accorsi veramente in tanti per dare solidarietà alla Verdi sotto sgombero. E insomma l'aria che si respirava però non era un'area appunto di rassegnazione, ma una rabbia che insomma è sfociata anche in una voglia di mettersi in prima fila, di mobilitarsi, di continuare insomma anche se non abbiamo più la nostra residenza occupata, rimanere uniti e rilanciare verso guardare verso il futuro. Non penso che si possa dire che ci hanno sconfitti, anzi penso che si possa dire che siamo ancora in tanti, siamo molto uniti e determinati nel continuare a creare un problema alle forze dell'ordine, alle istituzioni in questa città. Nella serata di ieri, dopo un'assemblea molto partecipata qua a Palazzo Nuovo occupato, siamo usciti di nuovo nelle strade, anche lì siamo andati insomma a colpire i poteri forti di questa città, andando anche a sanzionare la sede della Banca Intesa San Paolo, che è insomma una banca che per la città di Torino sappiamo bene quanto conti, sappiamo bene anche quanto conti nella vita di noi studenti, dato che si sta comprando parti di università, colei che è la prima promotrice dei prestiti d'onore, che sono insomma lo strumento in cui vorrebbero, con cui vorrebbero fare indebitare a vita noi studenti. E il corteo ha poi proseguito fino ad arrivare a bloccare la stazione di Porta Nuova per un breve periodo, per poi appunto tornare a Palazzo Nuovo, che è la sede delle facoltà umanistiche, e occuparlo per la notte. Quindi insomma le iniziative di ieri sono state tante, e tanta era la determinazione e la rabbia, l'energia che si sentiva nel corteo, e speriamo che oggi sia uguale, se non di più. Benissimo, sì, d'accordo, lo speriamo anche noi, infatti, insomma, dal tuo racconto emerge con chiarezza quanto non c'è assolutamente voglia di sentirsi sopraffatti, ma insomma è davvero il caso di rilanciarla questa lotta a partire dallo studentato occupato, anche se ormai sgomberato, ma poi insomma non è detto che rimanga tale la situazione. Non è detto. Nel frattempo, Matilde, ecco, perché insomma è chiaro che anche gli studenti hanno appoggiato nel corso di tutti gli ultimi mesi le lotte contro l'alta velocità in Val di Susa, e secondo questo mutuo appoggio, che naturalmente accade quando settori diversi di lotta comunque riescono a trovare delle basi comuni per stare insieme, credo che anche insomma stasera a Chiomonte dovrebbe esserci un presidio, credo, di solidarietà, no, nei confronti degli studenti dello studentato Verdi occupato. Sì, ci ha fatto molto piacere che già ieri sera si sono visti al presidio di Chiomonte tante e tanti notav in solidarietà alla Verdi 15. C'è stata insomma una battitura solita alle reti, insomma per noi è stato veramente molto bello che arrivasse anche la solidarietà dalla Val Susa col movimento Notav. Insomma è un sodalizio che continua da anni, quello tra movimento studentesco qua a Torino e movimento Notav. Anche alla Verdi spesso insomma avevamo ospitato dibattiti e conferenze sul tema, spesso siamo anche saliti in valle quest'estate, l'estate scorsa, insomma è stata una riprova che la Val di Susa ci avvicina in questo momento, come noi abbiamo sempre un pezzo di cuore in Val di Susa. Assolutamente, e poi insomma è un'occasione di più, purtroppo giocata sulla pelle di chi lotta e di chi vive le condizioni che poi costringono a occupare, insomma una contraddizione evidente tra lo sperpero di denaro da una parte e i tagli assolutamente ingiustificati, illegittimi e incredibili dall'altra, per tutto ciò che riguarda i servizi, la socialità, gli spazi e i bisogni. Vabbè, la situazione è complicata da questo punto di vista. Matilde, noi ti ringraziamo molto per questo tuo contributo e ci si risente sicuramente a presto. Va bene? Va bene. Ciao, ci risentiamo. Ciao. Un saluto, ciao.